Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Scusa, ma Gas Gas non era uno dei due topini che miracolosamente non ne ho idea. Di Cenerentola si trasformano nei due cavalli e portano lei? Non ne ho idea. Però quello c'entra. Di cui parliamo oggi, i Gas Gas di cui parliamo oggi sono un po' diversi. Fanno miracoli però. Partiamo. Di cui parliamo oggi, Gas Gas, sono l'azoto, l'ossigeno, l'argon, l'anidride carbonica e così via. Quelli veri. Sono i gas veri. E perché li raccontiamo qui a Food Lab? Perché non sapete quanto siano importanti nella filiera alimentare. In tantissimi ambiti, lo vedremo adesso con la nostra ospite, dalla conservazione alla crioconservazione, quindi surgelati, al sottovuoto e chi più ne ha più ne metta. Allora, la presentiamo? Sì. Dottoressa Luisa Torri, benvenuta. Grazie dell'invito, saluti a tutti. Benvenuta. Allora, lei è ricercatrice in scienze e tecnologie alimentari all'Università degli Studi delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, però ha scritto anche un libro, è autrice di questo libro che si intitola Più che gas, alimenti, di Artec Editore. Quindi diciamo che lei su questo argomento ne sa tanto. Sa tutto. Noi abbiamo fatto un po' un'introduzione così un po' anche spiritosa, però in realtà lei ci conferma che il ruolo dei gas è fondamentale e importantissimo. Sì, assolutamente. I gas alimentari sono molto importanti, vengono utilizzati in tantissimi ambiti e con ruoli diversi. In alcuni casi vengono utilizzati come veri e propri ingredienti, quindi entrano in quella che è la composizione di un alimento. L'esempio più noto a tutti probabilmente è l'impiego dell'anidride carbonica, utilizzata per produrre le bevande gassate. In altri casi possiamo utilizzare i gas semplicemente come additivi. Ad esempio è il caso dei gas utilizzati per far uscire la panna spray dalla bomboletta, questo è il caso dei gas propellenti, oppure giusto. Additivi un po' diversi come quelli che si utilizzano per il confezionamento degli alimenti freschi in atmosfera protettiva. Cioè ad esempio le insalate già pronte, tutta la quarta gamma, oppure i salumi dentro le confezioni in plastica, questo tipo di cosa? Esattamente, tutti questi prodotti, dai formaggi alla frutta e verdura, la pasta fresca ripiena, salumi, ma anche pesce, carne e anche altri prodotti secchi come esempio i biscotti oppure il caffè, la frutta secca, sono confezionati in questi gas. Per fare qualche esempio, per i biscotti, caffè, frutta secca sgusciata usiamo dell'azoto, quindi un'atmosfera, cioè l'aria che è presente diciamo, nella confezione viene sostituita con azoto al 100%. Cioè prima che la confezione venga chiusa viene risucchiata l'aria e viene insufflato azoto. E perché col caffè per esempio? Perché per il caffè non abbiamo bisogno di grandi gas che hanno un ruolo attivo, ci basta l'azoto che è un gas inerte e quello che fa è semplicemente sostituire l'aria. Nell'aria c'è ossigeno, c'è umidità, ci sono microrganismi. Se noi togliamo l'aria e mettiamo un gas azoto come l'inerte, andiamo a togliere tutti quei fattori che possono produrre un invecchiamento e una degradazione del prodotto, quindi l'ossigeno potrebbe ossidare il caffè, alcuni componenti del caffè, così come l'umidità potrebbe andare a ridurre la conservazione del prodotto. Senta, però in alcuni casi invece, per esempio quando si apre il caffè si sente il barattolo, si sente che sembrerebbe che invece sono sottovuoto. Sì, quelli in cui sente questo rumore sono sottovuoto. È il caso delle confezioni che sembrano un po' una mattonella dura, no? Invece quando pensa al barattolo di alluminio, lì quando lo apre non c'è questo effetto rumore, c'è uno spazio libero nella confezione, non è, il barattolo non è completamente Più di caffè, ma quindi vuoto c'è dell'azoto. Okay. Quindi in alcuni casi invece conviene eliminare tutto ciò che è gasforme, diciamo, in alcuni casi. Il sottovuoto. L'eliminazione completa dell'aria di qualsiasi gas. E poi c'è tutta la questione dei surgelati che è molto affascinante perché anche lì forse noi non ci avevamo mai pensato, però è fondamentale che ad esempio in alcune situazioni, ad esempio i mirtilli surgelati o alcune verdure rimangano separate, cioè non si formi un blocco completo e anche qui serve l'aiuto di un gas. Sì, in questo caso è l'azoto o l'anidride carbonica. che vengono utilizzati come coadiuvanti tecnologici, quindi molecole che vengono impiegate per la produzione dell'alimento ma che poi non rimangono nel prodotto. E in questo caso è fondamentale utilizzare l'azoto, ad esempio, perché ci consente di raggiungere bassissime temperature in tempi molto rapidi e quindi diciamo di preservare la qualità del prodotto vegetale, ad esempio, che viene surgelato, in modo da garantire anche delle caratteristiche sensoriali di texture, di consistenza del certo. prodotto. Ma lì cosa succede? Che per esempio se ho i fagioli, gli metto l'azoto, a noi sembra un blocco congelatissimo, in realtà c'è una separazione interna minima ma molto utile? È così. Diciamo che favorisce la surgelazione dell'acqua presente all'interno del fagiolo senza andare ad alterare troppo quella che è la struttura del vegetale. E quindi quello che si trova poi nella confezione sono tanti fagioli ben separati uno dall'altro, perché questo perché crea una surgelazione molto molto rapida e evita la formazione di grossi cristalli di ghiaccio che poi tendono a far unire i singoli. Sarebbe troppo. Beh, anche molto banalmente, se noi compriamo diciamo quelli confezionati, fagioli o piselli, sono sgranabili, cioè sono facilmente utilizzabili anche con un dosaggio minore. Se li facciamo in casa e li andiamo a surgelare diventano un bel blocchetto, perché ovviamente ci mettono più tempo. Il processo è molto più lento, quindi si formano tanti cristalli grandi, al contrario di quello che succede nel processo industriale, che sono cristalli di ghiaccio piccolissimi, okay. e vanno a preservare proprio le strutture cellulari dei componenti animali, vegetali, dei prodotti alimentari che surgeliamo. Forse dovremmo fare una riflessione, perché tante volte i gas e comunque la chimica che viene utilizzata nella preparazione di alcuni alimenti, soprattutto quelli confezionati, viene vista come un artificio. Invece, ecco, Torri, è assolutamente un aiuto e, come dicevamo prima, è fondamentale per anche mantenere le caratteristiche organolettiche. A volte sono meglio quelli confezionati di quelli che magari facciamo noi e poi surgeliamo. Beh, sì, a volte capita questo sicuramente. Questo perché, come dicevo, a livello casalingo la surgelazione, infatti non è surgelazione, più che altro un congelamento, non avviene in tempi sufficientemente rapidi, per cui andiamo un po' ad alterare quelle che sono soprattutto le caratteristiche di consistenza del prodotto, per cui andando a rovinare quelle che sono le strutture cellulari, nel momento in cui poi andiamo a scongelare il prodotto abbiamo una perdita di liquidi, di essudati che fuoriescono dalla cellula, quindi il prodotto diventa un po' più molle, perde la consistenza, e insieme al liquido andiamo a perdere anche quelli che sono sali minerali e vitamine. Quindi viva i gas. Quindi viva i gas. Va bene, grazie dottoressa Torri, buon lavoro, buone ricerche. Grazie, buon lavoro anche a voi. Sui gas abbiamo detto, parleremo di altre tecnologie AgriFood in una delle prossime puntate. Ascoltateci.